Vuoi firmare i tuoi contratti e documenti in modo sicuro e da qualsiasi postazione? Usa la firma digitale di Aruba. È l'equivalente di una firma autografa di fronte ad un notaio. Ha quindi pieno valore legale. Attivala adesso su aruba.it. Focus Economia. Di Sebastiano Barisoni. Dieci minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Parleremo, ieri abbiamo trattato la vicenda all'Italia, continua il nostro viaggio nei dossier aperti del governo, mi riferisco quindi dall'Italia all'Ilva e ad Atlantia. Oggi parleremo di Atlantia, o meglio di Autostrade per l'Italia, perché come ha riferito il ministro De Micheli c'è stata l'accettazione da parte di ASPI dell'accordo negoziale prospettato dal governo, chiedendo però la sola eliminazione della clausola dell'articolo 10, e parla la De Micheli di stallo della trattativa perché resta no l'articolo 10. Cercheremo di capire, perché al di là della parte giuridica, l'articolo 10 è relativo alla condizione di efficacia della conclusione nella trattativa societaria, insomma. E quindi bisogna capire perché vi sia ancora un incaglio su questo articolo 10. Di questo parleremo, dicevo, in apertura. Poi alcuni elementi di carattere finanziario, mi riferisco soprattutto a Mediobanca. Mediobanca oggi sale del 4,24%, così do anche la borsa. Complessivamente Milano guadagna lo 0,85%, Mediobanca è il miglior titolo, più 4,24, segue Pirelli più 3,90, Tenaris più 3,20, Saipem più 3, Buzzi Unicem più 2,5 come Fineco e Generali, Unicredit più 2,40, Eni più 2,30, Telecom più 2,20, Amplifon più 1,90%, fronte opposto Moncler meno 1,70%, di Assorin pure, Ferrari meno 1,5%, Inuit meno 1%. Dicevamo di Mediobanca, perché oggi si è avuta comunicazione che la Delfine, quindi Leonardo Del Vecchio, è salita al 10,162% rispetto al 9,889 precedente. Quindi questo è arrivato, Del Vecchio ha fatto quello che aveva annunciato, cioè dopo il via libera da parte della Banca Centrale Europea è salito oltre la soglia del 10%. L'investimento, ha detto, a carattere finanziario di lungo termine, garantiremo stabilità e crescita, ha detto la Delfin. La quota è stata acquisita per la maggior parte ricorrendo a un indebitamento finanziario, nello specifico mediante linee di credito concesse da Unicredit Luxembourg da un lato e dall'altra parte da Intesa San Paolo Luxembourg. In realtà andremo a capire, visto che da sempre diciamo, ricordiamo che Mediobanca, pur essendo cambiato il mondo anche finanziario negli ultimi 20 anni, non ha più la crucialità, diciamo, dei tempi di Enrico Cuccia, però resta uno snodo fondamentale nelle partecipazioni incrociate, nelle partecipazioni finanziarie tout court, potremmo dire, anche nel capitalismo italiano. Perché Mediobanca ha insieme di azionisti il famoso patto di consultazione che ha il 12,5%, dove ci sono dentro Mediolanum, i Benetton, Fininvest, e poi c'è Del Vecchio dall'altra parte che non entra in questo patto, che ha il 10,2%, Bolloré che ha il 5,6%, ma a sua volta, lo ricordo ogni volta, Mediobanca è il principale azionista delle Generali con il 12,86%, seguono Caltagirone con il 5,25%, Del Vecchio con il 4,80%, Benetton con il 4%, e sappiamo che spesso si dice Mediobanca ma si legge Generali. Di questo parleremo nel corso del programma, così come parleremo anche del risultato, diciamo, di un festival che si è sviluppato anche quest'anno con una 17 giorni, con tantissimi personaggi e politici soprattutto presenti. Penso al ministro degli esteri Di Maio, al vice segretario delle Nazioni Unite Amina Mohamed, il presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte, il commissario europeo agli affari economici Paolo Gentiloni, ma anche insomma personaggi che rappresentano il mondo delle imprese, è la manifestazione promossa dall'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile. Ora, parlare di sviluppo sostenibile nel momento in cui ci stiamo tutti interrogando su quale sarà il danno del Covid dal punto di vista economico può sembrare quasi fare teoria o accademia. In realtà proprio nel piano per uscire dal crollo economico del Covid, mi riferisco al piano Next Generation EU, da tutti chiamato Recovery Fund, uno dei tre pilastri è l'investimento nella sostenibilità, nel verde. E quindi in realtà le due cose si tengono, cioè il tentativo è ovviamente primum vivere, e quindi prima uscire il più possibile da questa crisi con i minor danni possibili, ma allo stesso tempo sfruttare tra virgolette l'opportunità, uso le virgolette sul termine opportunità, che questa crisi ha dato per modificare anche alcuni elementi nelle direttrici di sviluppo, che ripeto è quello di cui si occupa il Recovery Fund. Molti lo scambiano solo per una ciambella di salvataggio, in realtà l'obiettivo, almeno in teoria, è più ambizioso. Ecco perché si chiama Next Generation EU, perché vuole occuparsi delle generazioni future che abiteranno il continente europeo, e quindi appunto da questo punto di vista sia la digitalizzazione ma anche la sostenibilità economica. Ne parleremo nella seconda ora del programma. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, la diretta su Facebook. Vedo alcuni messaggi sulla Cina, alcuni di voi mi chiedono, penso anche riprendendo alcuni articoli di giornale usciti oggi a proposito del Covid, chiaramente la Cina è l'unico paese che avrà il segno più tra le principali economie e che si sta riprendendo anche come consumi. Molti di voi mi fanno notare come mai l'assenza totale di una seconda ondata in Cina, di nuovi casi in Cina. Guardate, io lo dico col massimo rispetto, però con la massima schiettezza, io non penso che, vista l'esperienza dei mesi gennaio, febbraio, marzo, aprile, non penso che i dati cinesi, quantomeno sul Covid, possono avere alcun tipo di credibilità, punto. Poi saranno stati più bravi, quello che volete, ma siccome la Cina ha chiuso ogni tipo di investigazione, come abbiamo già ricordato, ogni tipo di commissione di inchiesta di carattere internazionale, come avrebbe fatto un altro paese, voglio vedere se fosse successo una cosa del genere in Italia, io dei dati cinesi su quello che sia la reale diffusione, i reali ricoveri, non mi fido più. Poi saranno sicuramente veri, ma io non mi fido, perché non c'è stata mai da parte della Cina un'operazione trasparenza, sarà un'operazione marketing, ti mando un po' di milioni di mascherine dopo che ti sei presa quelle che servivano a gennaio e febbraio, ti mando un po' di respiratori, ma operazioni di marketing puro. Invece operazioni di trasparenza per capire come si è generato, quanto tardi è stato dato l'allarme, perché è stato dato così tardi, quali variabili sono intervenute, tutto. Quindi voglio dire, stiamo dei dati che fanno sorridere in questo momento, se dobbiamo guardare l'estensione del paese Cina e ancora quelli che sono ufficialmente i loro contagiati, i loro decessi. Fanno sorridere perché tutti i paesi europei sono andati ben al di là. Allora, immaginare che 1,5 miliardi di persone abbiano sviluppato meno della metà dei contagiati e dei decessi dei paesi, di paesi che hanno 60 milioni di abitanti come la Francia o 56 come l'Italia, fa ridere e basta, su. Comunque adesso dovremmo anche i dati italiani. Purtroppo la Germania e l'Italia si stanno muovendo in parallelo, lo dico purtroppo perché non è una gara, perché anche in Germania oggi sono stati registrati 4.000 nuovi contagi, mai così tanti dall'11 aprile, quando il paese era ancora in una specie di lockdown. La Francia ha fatto un nuovo record ieri, aspettiamo il dato francese, esce più tardi, 18.746 casi, aumenta 80 anche il numero delle vittime quotidiane, e i dati sono stati diffusi dalla Sanité Publique, e Macron ha detto che l'epidemia continua a crescere, in alcuni territori siamo riusciti a fermare le cose ma il virus circola troppo veloce, e ha detto non saremo in un tempo normale nei prossimi mesi, e ha detto dovremmo andare verso maggiori restrizioni. È scattato di nuovo questa mattina nell'Île-de-France, la regione di Parigi, quello che si chiama Plan Blanc, il piano di emergenza per mobilitare tutte le risorse degli ospedali in presenza di una crisi. Quindi, siccome c'è di nuovo una pressione, con buona pace dei negazionisti, una pressione ahimè sugli ospedali francesi, è ripartito il Plan Blanc, cioè quello che mobilita i posti letto, la dico in maniera un po' sintetica. Sostanzialmente, da questo punto di vista, il direttore della sanità regionale ha spiegato che comincia di nuovo a far sentire in rianimazione negli ospedali la pressione del Covid, e quindi bisogna mobilitare tutte le risorse e anticipare i prossimi giorni. Il piano bianco, il Plan Blanc, era stato decretato lo scorso 6 marzo nella prima ondata ed esteso a tutto il paese il 13 marzo. La Spagna, la Corte Suprema di Giustizia di Madrid, ha bocciato le misure di contenimento del coronavirus imposte dal governo nella capitale spagnola e in altre 9 città, affermando che lede i diritti e le libertà fondamentali. Però la presidente della Comunità di Madrid, l'Ayuso, ha invitato i cittadini a non lasciare la capitale nonostante la vittoria di oggi in tribunale. Le misure volute dal governo centrale su Madrid, c'era stato uno scontro durissimo con il sindaco di Madrid, e prevedevano, vietavano di lasciare i comuni di residenza se non per ragioni di studio, lavoro o salute. Saranno ritirate, ma al loro posto, dice l'Ayuso, ne saranno altre eque e ponderate. Allora, i dati italiani diffusi poco fa. Oggi i soggetti positivi sono stati praticamente 4.458 in più rispetto a ieri, più 1,3%. I decessi sono però contenuti ancora, ieri erano stati 31, oggi 22. E poi i tamponi sono stati 2.800 in più rispetto a ieri, non un numero altissimo, ma il numero più alto, 128.000 tamponi in Italia in un giorno, è il numero più alto in un giorno. I decessi per fortuna sono più bassi di ieri, più 22, i ricoverati con sintomi sono invece 143 in più, ieri erano 157 in più, quindi direi stabile, anche un po' più basso, di cui 358 in terapia intensiva, e qui purtroppo sono 21 terapie intensive in più in un giorno rispetto alle 18 di ieri. E poi ci sono dati appunto che riguardano le singole regioni, problema in Campania ma anche in Emilia Romagna. Comunque, questi dati, andiamo avanti. Allora sì, diciamo che questa settimana abbiamo superato sia la soglia dei 3.000 che oggi anche quella dei 4.000, vedremo dove si stabilizzerà il livello. Certo che noi, pur comportandoci meglio dei 18.000 casi, quasi 19.000 casi francesi di ieri e 80 decessi, siamo appunto a un quarto dei casi e a un quarto dei decessi, però questa corrispondenza, diciamo proporzione tra decessi e casi, la deve dire lunga anche sulla pericolosità, cioè si mantiene un rapporto, 18.000 casi ieri in Francia, 19.000 quasi, e 80 decessi, 4.600 oggi in Italia e 22 decessi in più. Allora, buona notizia invece per le obbligazioni greche, sembra passati secoli da quando la Grecia venne sostanzialmente commissariata. Perché lo dico? Perché oggi la Grecia ha collocato dei BTP a 10 anni e sappiamo che dallo scorso febbraio, tra l'altro poco prima dell'emergenza lockdown, l'emergenza Covid, la Grecia è stata riammessa al mercato dalla Banca Centrale Europea e fa parte degli acquisti della BCE, non solo il debito italiano. Comunque ha emesso, diciamo, un BTP greco a 10 anni con un rendimento che è sceso allo 0,87%. Veniamo all'Italia. L'ABI comunica oggi l'andamento delle richieste al fondo di garanzia. Hanno toccato gli 89 miliardi di euro per un totale di 1.145.000 domande, di cui 928.000 domande fino ai 30.000 euro per 18,2 miliardi. E qui siamo a un punto di PIL di Sappiamo che i 30.000 sono quelli più sono quelli che vengono dati più velocemente, perché dopo alcune modifiche si è snellita anche la procedura burocratica e il rimborso è a 10 anni, con sostanzialmente si inizia a pagare, se non ricordo male, dopo i primi 4 anni, ma il resto invece, i 500.000 e fino ai 5 milioni c'era la garanzia dello Stato e poi i Confidi al 10%. Comunque le domande fino a 30.000 euro rappresentano la stragrande maggioranza, 928.000 su 1.145.000, ma come sempre ricordiamo, in termini di valore hanno un valore più basso, perché appunto riguardano i 30.000 euro, valgono 18 miliardi, mentre restanti sostanzialmente 70 miliardi sono per le domande da 500.000 fino a 5 milioni. Dunque oggi il ministro Speranza ha confermato che ha firmato un'ordinanza che dispone test per chi arriva da Belgio, Olanda, Gran Bretagna e Repubblica Ceca, dopo che invece la Grecia è uscita dai paesi in cui bisogna fare il test se vi si reca lì. È tornata la cabina di regia governo regioni come durante il lockdown, lo ha annunciato il ministro Boccia. Per quello che riguarda invece il rinnovo del contratto dei metalmeccanici, oggi si sono riunite FIOM, FIM e WILM per valutare iniziative di protesta a sostegno del rinnovo del contratto dei metalmeccanici dopo l'interruzione della trattativa di ieri. La Federmeccanica infatti ha confermato la disponibilità solo ad aumenti sui minimi contrattuali strettamente legati all'inflazione, e lì si sono interrotte le trattative. Se si tratta di meno di 40 euro di aumento regime al quinto livello nei prossimi 3 anni, a fronte dei circa 144 richiesti. Il 2% di aumento salariale a fronte dell'8% chiesto dai sindacati. E i lavoratori metalmeccanici hanno annunciato 6 ore di sciopero a sostegno del rinnovo contrattuale, 4 ore di sciopero per il prossimo 5 novembre. Invece restiamo su un altro tema, già ce ne siamo occupati la settimana scorsa. Allora, la tappa di imprese vincenti, il viaggio in questo caso anche molto digitale con cui Intesa San Paolo assieme a Radio 24 va a raccontare i casi di successo delle piccole e medie imprese in Italia, cercando di usarli a seconda dei vari settori, l'ho spiegato spero abbastanza in maniera esaustiva la settimana scorsa, e a seconda dei settori capire quali sono stati i modelli di successo per vedere se possono essere replicabili anche per altre imprese dello stesso settore o con dimensioni e caratteristiche simili. Oggi, dopo la tappa di partenza a Milano, si è spostato a Firenze e a Torino, e quindi ricordo che sono 4.000 imprese che si sono autocandidate in tutta Italia. Ne sono state selezionate 144 sui criteri appunto di innovazione, internazionalizzazione, sostenibilità e investimenti sul capitale umano. A seguire queste due tappe c'è stato il nostro Andrea Ferro. Tra Toscana e Umbria, digitalizzazione, sostenibilità e filiere sono gli elementi sui quali si impalca la ripartenza dopo i colpi inferti dalla crisi. Un dato su tutti, qui le esportazioni del settore della moda sono calate del 34%, a fare da contraltare lo sviluppo della farmaceutica, cresciuta nella stessa percentuale. Numeri e prospettive che emergono dal Digital Tour di Imprese Vincenti, l'iniziativa di Intesa San Paolo per valorizzare il tessuto delle piccole medie imprese. Tour che questa settimana ha fatto tappa a Firenze e Torino, un focus sulla situazione in Piemonte da Marco Gai, presidente di Confindustria Piemonte. In questo contesto il Piemonte si sta muovendo con una ripartenza di alcune produzioni dopo il periodo del lockdown, ripartenza che disegna un Piemonte un po' a macchia di leopardo, quindi aziende che meno hanno sofferto in questo periodo e aziende che chiaramente più hanno riscontrato, soprattutto quelle del settore metalmeccanico, una crisi dovuta anche agli stop e ai ritardi nella produzione. Però la caratteristica, straordinaria caratteristica dell'impresa piemontese sta facendo sì che ci sia comunque una voglia di riscatto, di ripartenza, e un po' tutti i settori stanno mettendo in campo tutta la loro determinazione. Bisogna comunque essere cauti e continuare insieme in un percorso andando a valorizzare appunto le eccellenze piemontesi. L'innovazione di prodotto e di processo è da sempre uno degli elementi portanti del tessuto produttivo piemontese. C'è una volontà grandissima di investimento nella trasformazione digitale e nell'innovazione per far sì che il binomio ormai indissolubile prodotto-servizio estragga valore aggiunto sulle produzioni, permettendo alle nostre aziende di competere meglio sui mercati nazionali e internazionali, ma soprattutto di essere pronti poi quando ci sarà una ripartenza più generale. E ora tre storie di imprese che nella tempesta della crisi guardano avanti. Cultraro è un'industria meccanica con sede a Rivoli che ha fatto della qualità e dell'innovazione del prodotto la chiave vincente. Paolo Cultraro è l'amministratore unico. Noi inventiamo, produciamo, vendiamo, commercializziamo rotary damper, sistemi di rallentamento, quindi tutto ciò che serve per creare il soft close. L'esempio ideale è proprio, diciamo, sono i mobili, gli sportelli della cucina, quindi il classico cassetto dove all'interno sono riposte le posate. Quando lo si chiude, lui gli ultimi centimetri, diciamo, viene richiamato in maniera rallentata, quindi tutti gli sportelli della cucina che oggi non sbattono più adottano i nostri prodotti. Non ci riempiamo la bocca solo di flessibilità e innovazione come motto, ma lo decliniamo tutti i giorni con assolutamente idee, materiali, processi e prodotti innovativi. Ci piace, insomma, poter gestire tutta la filiera del nostro processo produttivo, perché abbiamo trovato rapidità, flessibilità e innovazione per dare il servizio ai clienti, potendo dominare tutta la supply chain con le tecnologie necessarie. Un'altra storia di innovazione dalla Toscana, Luca Lastrucci è l'amministratore delegato di PowerSoft, società specializzata in apparecchi per la registrazione e la riproduzione di suoni e immagini. Abbiamo festeggiato a febbraio di questo anno 25 anni e siamo un'azienda a Scandicci, quindi a Firenze, che si occupa di sistemi di amplificazione audio per uso professionale. Quindi concerti, grandi installazioni, aeroporti, stadi, cinema, teatri, navi, dove c'è bisogno di tanta potenza audio, spesso nel mondo ci siamo noi. In questi 25 anni siamo sempre cresciuti anno su anno, siamo cresciuti anche in termini di occupazione, soprattutto dopo anche il momento della quotazione in borsa, un incremento importante. Abbiamo ristrutturato, riorganizzato l'azienda, lo scopo e l'obiettivo di farci cambiare passo, cambiare la cultura aziendale, cambiare gli strumenti e, se vogliamo, anche attirare dei talenti proprio per organizzarci per il futuro. Ancora un'azienda che segue un trend di crescita costante è Sampierana, Laura Para Corporate Affairs. Produciamo mini escavatori o skill loader da una tonnellata a 10 tonnellate col marchio Eurocoma, che è un marchio nostro. La seconda divisione nostra è relativa ai sottocarri cingolati, che sarebbero la parte sottostante alle trivelle o ai grandi escavatori. E la terza divisione è quella della ricambistica delle parti carro. Per quanto riguarda la prima divisione, che è quella delle macchine movimento terra, oramai siamo rimasti gli unici costruttori italiani, sostanzialmente. Nel corso degli anni abbiamo sempre investito nell'ufficio tecnico, nell'innovazione, anche avendo l'opportunità di rivolgerci ai mercati internazionali. Il primo mercato è la Germania, secondo mercato Francia, ma siamo presenti anche in Australia, Nuova Zelanda, principalmente però in Europa. Allora, poi continueremo a seguire il viaggio per l'Italia di imprese vincenti. Prima di parlare adesso invece della vicenda Autostrade per l'Italia, bisognerà entrare un po' nel tecnico. cercherò di essere più chiaro possibile. Sapete che tutto sarà bloccato per il rifiuto di Atlantia, che controlla l'88% di Autostrade per l'Italia, che a sua volta è controllata in primis da Sintonia dei Benetton col 30%, di accettare la, o meglio, di accettare la richiesta di Cassa Depositi e Prestiti, che dovrebbe entrare nel capitale, della manleva, e cioè di non rispondere per eventuali azioni giudiziarie già in corso, ma anche che dovessero arrivare nei prossimi mesi, relativamente soprattutto al ponte, al crollo del ponte Morandi, azioni di carattere civile ma anche penale. Ripeto, la manleva e lo scudo è quello che aveva chiesto, a mio avviso correttamente, anche ArcelorMittal per entrare, per non pagare per le colpe dei Riva. Quindi io non capisco veramente l'atteggiamento di Atlantia e De Benetton, anche perché come si può immaginare che la CDP entri con quello che è successo? E qualcuno avrà sbagliato lì, eh? Non è che i ponti crollino così per mano divina, per l'assenza di mano umana forse. Ecco, è come se non ci fosse stato nulla di tutto questo, è come se, diciamo, vi fosse un tentativo di esproprio proletario da parte dello Stato. Comunque ne parliamo dopo il meteo. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. State ascoltando un programma offerto da Columbia Threadneedle Investments. Il vostro successo è la nostra priorità. Focus Economia. Minuti, vedo molti messaggi al 349-238-6666 sulla vicenda autostrade, e do ragione agli ascoltatori che dicono certo che se avessimo una giustizia non così lenta, visto che comunque con tutti i difetti che ha il nostro sistema, diciamo, pubblica amministrazione, con il commissario Bucci, il ponte si è ricostruito in un tempo record, io non ancora... Certo che la magistratura aiuterebbe se fosse già arrivata a almeno una sentenza, almeno a istruire il processo con, e non dico una sentenza di primo grado perché sarebbe un paese troppo, ma insomma dopo due anni, no? Non si capisce, vabbè. Laura Galvagni del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. Buonasera a voi. Laura, mi ricollego a questo, adesso vediamo di capire cos'è l'articolo 10. Aiuterebbe se la magistratura, diciamo, avesse già, fosse già in fase avanzata sul, almeno sul processo di primo grado, perché qui il tema della manleva è chiaro che è quello cui, attorno a cui ha ruotato tutta la tensione anche con il governo. Sì, beh, diciamo che è particolare il modo in cui verrà trattato l'aspetto giudiziario, nel senso che questo tema qua verrà affrontato con un incidente probatorio e quindi con il confronto di due distinte perizie. Queste due distinte perizie verranno depositate nei prossimi giorni. Solo a valle di quelle puoi avere il quadro di quali possono essere le state le cause del crollo. Senza quelle, certo, sono tutte ipotesi che però non possono, certo, essere in alcun modo verificate. Quindi se quello step lì fosse già stato fatto, sicuramente a un certo punto l'azienda sarebbe quantomeno in grado di valutare ed identificare quelli che potrebbero essere i rischi indiretti legati a quel tragico evento. In questo caso qui, peraltro, nel caso di ArcelorMittal c'era anche un'altra, e dell'Ilva c'era un altro elemento. In quel caso lì comunque era stato individuato il prezzo, era stata chiusa la trattativa. Qui non è stato individuato un prezzo, non è ancora stata avviata realmente una trattativa, se non un tavolo di confronto che per ora non ha portato a nulla. Quindi, come dire, aggiungo anche che nel caso di ArcelorMittal e dell'Ilva c'era già stata anche la confisca dei beni dei Riva, cioè c'erano state delle iniziative che la magistratura aveva già preso. Non dico che quello basti per condannare, però qui siamo ancora invece in alto mare. Allora ascoltiamo oggi il ministro De Micheli che spiega che le è arrivata una lettera di ASPI, di Autostrade per l'Italia, in cui si accetta la proposta, la trattativa, senza però l'articolo 10, e spiega anche perché lo stallo resta. Devo darvi notizia che è appena arrivata un'ora fa una nota di Autostrade per l'Italia con la quale ci ha comunicato di accettare il testo dell'accordo negoziale prospettato dalla parte pubblica, chiedendo la sola eliminazione della clausola dell'articolo 10, relativa alla condizione di efficacia della conclusione della trattativa societaria. Lo stallo è dovuto al fatto che permane anche nella lettera appena giunta al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti la non accettazione della clausola dell'articolo 10, che richiama perfettamente gli impegni assunti da Atlantia e da Aspi nella lettera inviata ai ministri e appunto discussa nel Consiglio dei Ministri del 14 e 15 luglio. Allora, Laura Galvagni, ti chiederò adesso il traffico, però di spiegarci nella maniera più semplice possibile che cos'è sto articolo 10 e perché la De Micheli a questo punto ha parlato di uno stallo nella trattativa. Un minuto di pazienza, 349-238-6666 per sms e whatsapp. Strade in diretta. Una buona serata. A causa di un incidente si verificano code sull'autostrada del Brennero tra il confine di Stato e Vipiteno in direzione Modena, code per lavori in questa direzione nel tratto compreso tra Alavio e Affi e in direzione del Brennero code sempre per lavori tra Affi e Alavio. Si viaggia in coda per lavori sulla 9 Milano-Como, in direzione Milano tra Chiasso e Como Centro, in direzione della Svizzera, tra Como Centro e Como Montolimpino. Code per lavori sulla 26 Genova Gravellona-Toce tra l'innesto con la 10 Masone in direzione Gravellona e tra Ovada e l'innesto con la 10 in direzione Genova. Code per un incidente sulla 10 Genova Ventimiglia tra Orcofellino e Spotorno in direzione Genova e per un altro incidente code sulla tangenziale di Bologna in direzione dell'innesto con la 1 Milano-Napoli tra Castelmaggiore e lo svincolo per l'aeroporto, appunto in direzione della 1. Code per un incidente anche sulla 1 Milano-Napoli tra Orvieto e Attigliano in direzione Napoli e tutto a più tardi. Focus Economia. Dunque, Laura Galvagni, che cosa vuol dire rifiutare l'articolo 10 e perché il ministro De Micheli dice resta lo stallo nella trattativa con Autostrade per l'Italia? Allora, l'articolo 10 è contenuto nell'atto transattivo e stabilisce sostanzialmente che atto transattivo e piano economico finanziario presentati e concordati tra Autostrade per l'Italia e il Ministero dei Trasporti è valido solo e soltanto se Atlantia vende Autostrade per l'Italia a Cassa Depositi e Prestiti. Il punto di Autostrade per l'Italia è: io sono la società concessionaria, ho un rapporto con il concedente, quindi con lo Stato, PEF e atto transattivo sono qualcosa che prescindono da quello che farà la mia controllante, quindi Atlantia. Se dovete discutere di assetto azionario, ne dovete discutere con loro. E quindi dicono non può essere contenuto, non possiamo vincolare noi il nostro socio a venderci a CDP. Diversamente discutete di questa cosa direttamente con Atlantia. Questa è sostanzialmente. Allora, fammi capire però una cosa in maniera molto schietta. Prima avevamo capito che il problema fosse la manleva, o meglio la Cassa Depositi e Prestiti diceva, a mio avviso giustamente, non possiamo rispondere noi se entriamo e diventiamo gli azionisti di riferimento di eventuali cause civili, ma non solo, per la gestione precedente. Adesso l'articolo 10, la domanda è molto schietta: è un tentativo di porre vari ostacoli oppure era sbagliata l'intero impianto e bisognava trattare subito con Atlantia? Perché così a vedere da fuori dici prima c'è la manleva, poi l'articolo 10, è come se ci fosse un gioco, diciamo, a rimpiattino, però magari tu mi puoi anche dire no, forse l'errore è stato trattare con Aspi, non con Atlantia. Ci sono due piani differenti, c'è un piano che è quello che riguarda la convenzione, che doveva essere per definizione una trattativa tra Autostrade per l'Italia e il governo, e è appunto quello che riguarda atto transattivo e PEF. E poi c'è un ulteriore piano di confronto che è quello che riguarda invece Atlantia e il governo su come vendere Autostrade per l'Italia. Qui si sono mischiate le due cose, cioè nel momento, qual è però, perché il governo teme questa cosa e ha voluto inserire quella clausola? Perché nel momento in cui tu approvi PEF e atto transattivo, stabilisci anche il valore di Autostrade per l'Italia e quindi il prezzo al quale può essere venduto. Una volta che tu hai stabilito quel prezzo, a quel punto devi fidarti di Atlantia. Lo vende a te o lo vende al miglior offerente? Sì, chiaro. Quindi il governo ha detto, beh, attenzione, però questo a patto che tu lo venda a me. Ho capito bene. Esatto. Tutto questo va bene. Io ti valuto Atlantia, questo prezzo qui. Ma poi non è che vai sul mercato a cercare. Però, scusami, resta la domanda di fondo forse più politica. Qui Atlantia sta facendo melina grazie anche agli avvocati e tutto quanto, e quindi prima mette di mezzo il no alla malleva CDP bloccando chiaramente ogni interesse di CDP, che ricordo gestisce i risparmi postali degli italiani, quindi non è che possa permettersi operazioni alla leggera o diciamo rischiose. Adesso l'articolo 10, la sensazione che tu hai che vi sia una battaglia di carattere anche legale, non sto dicendo che sia strano, sto solo cercando di capire il perimetro, oppure in realtà sono tutti, perché qua ogni volta c'è un rilievo nuovo. Ma allora, sul piano formale è di fatto come se l'affittuario si impegnasse al nome del proprietario dell'immobile a cedere l'immobile. Sì. Il meccanismo è quello, tu affittuario non puoi obbligare il proprietario dell'immobile a vendere la casa dove vivi a un terzo. Però esce adesso questa contestazione, prima ci occupavamo della malleva, cioè, perché non hanno detto subito, voglio dire, questo accordo è del 15 luglio, se ricordo bene. Allora, gli azionisti Atlantia di Autostrade per l'Italia e a maggior ragione la famiglia Benetton potevano dire subito, guardate che questo accordo a noi non sta bene per la malleva CDP, che non gliela daremo, e per l'articolo 10 per cui l'affittuario, come giustamente dici tu, Aspi, deve decidere il prezzo della casa anche se la casa è di proprietà di Atlantia all'88%. Perché esce adesso che siamo a ottobre? Esce adesso che siamo a ottobre perché questo tema qua dell'articolo 10 è stato inserito in una lettera che ha mandato il MIT ad Autostrade per l'Italia a inizio settembre. Quell'aspetto lì non era mai stato affrontato e quindi da inizio settembre gli ostacoli sono aumentati, nel senso che la malleva, che è un tema che ha sempre posto CDP, è sempre stato un nodo da sciogliere. Quello era un elemento, dove le parti non trovavano un'intesa. All'improvviso a settembre il Ministero ha rimandato indietro l'ennesima proposta di PEF e di atto transattivo inserendo questo articolo 10. A quel punto Autostrade ha detto no, se discutiamo di PEF e atto transattivo va bene, ma io non posso vincolare il mio azionista a vendermi a Cassa Depositi e Prestiti in un documento peraltro che nulla ha a che vedere con quella trattativa lì. Per cui a quei vecchi ostacoli che già si erano posti si è aggiunto questo ulteriore che non si riesce a sciogliere. Si ragiona sempre in punta di diritto, purtroppo... Allora, un'ultima domanda su che tu in parte hai già anticipato. Non si riesce a sciogliere, quindi non si è sciolto il tema malleva non si è sciolto il tema adesso pure articolo 10. A me sembra che al di là delle dichiarazioni, non dico trionfanti, ma insomma positive dei ministri, ho qua le agenzie del 15 luglio, Di Maio, Benetton fuori, ce l'abbiamo fatta, Patuanelli, entro settembre la prima perdita di controllo da parte di Atlantia, e poi ancora Buffagni, l'Italia non in vendita, vince la linea dura dei 5 Stelle, Di Battista, mitico come sempre, schiaffo a Benetton, Conte ha sposato la linea 5 Stelle. A me sembra che qua più che schiaffo siamo alle carezze ancora, cioè, nel senso, io non voglio lo schiaffo a Benetton, voglio che chi ha sbagliato paghi. Noi abbiamo anche ricordato quanti investimenti sono stati fatti, lo ricordavamo la settimana scorsa, scusatemi, non sono stati fatti a fronte di pedaggi invece aumentati, perché poi c'è anche questo tema. Io non dico che fossero gli investimenti per il Ponte Morandi, ma non mi va bene nemmeno che tu in questi anni, per colpa anche di chi non ti ha controllato, ma anche per colpa tua, hai fatto molti meno investimenti di quanti avevi preventivato e sulla base dei quali avevi aumentato i pedaggi. L'esito di questa cosa, al di là delle dichiarazioni tutte politiche, come sempre poco nei contenuti, ma molto così sull'immagine complessiva delle persone che ho appena citato? L'esito è ancora decisamente da scrivere. Probabilmente io penso che davvero un elemento dirimente potrebbe essere l'avvio dell'incidente probatorio, perché nel momento in cui si capisce o comunque si può intuire quali sono le responsabilità rispetto al crollo del Ponte Morandi, o una o l'altra parte in qualche misura dovrà abbassare i toni. Adesso bisognerà però vedere quell'aspetto lì, diversamente sarà uno scontro frontale fino a quel momento lì. Sì, con l'unica arma a mio avviso in mano, una delle principali in mano al governo, al di là della revoca della concessione che ti porterebbe in un cul-de-sac legale, è eventualmente se butta male il deprezzamento del valore del titolo, Laura, no? È brutto dirlo, ma è così, cioè nel senso che l'unico svantaggio che può averne Atlantia nel continuare con una linea di braccio di ferro è se il titolo si deprezza. Va considerato che per Atlantia Autostrade per l'Italia rappresenta oltre il 30% del margine operativo lordo, è quasi il 40%, quindi è evidente. No, ma lo dico così magari qualcuno capisce, al di là delle dichiarazioni che ho visto, cioè è inutile continuare adesso, facciamo la revocatoria di tutto. Sì, auguri sul fronte legale, perché qui prima parlano e poi vanno a vedere i testi. Altra cosa è far capire che ci sono tanti modi per far politica, che ne avrebbe un danno anche Atlantia sulla base dell'andamento del titolo, se la cosa dovesse inasprirsi al punto tale. Però mi sembra che appunto la situazione aumenti la sua complessità invece che diminuirla. Grazie anche per la chiarezza che le è propria, Laura Galvagni. Vado adesso su GR24, poi la borsa e nello specifico Mediobanca, la Delfin di Del Vecchio, che è salita dopo il via libera della BCE sopra il 10%, e l'economia sostenibile in un periodo di economia in recessione pesante causa Covid. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Mi piace giocare a pallamano, i giochi da tavolo. La fibrosi cistica spezza la vita. Sostieni la ricerca per i malati ancora senza cura. Cerca i ciclamini della ricerca su fibrosicisticaricerca.it. Io ti riscalderò con la massima efficienza. Tu verrai rimborsato al 110%. Lei ti farà risparmiare sulla bolletta. Noi avremo meno impatto sull'ambiente. Ma che tempo è? È il futuro del riscaldamento. Con Daikin il futuro è già presente. Sostituisci oggi la tua caldaia. Hai sostenibilità, efficienza e la possibilità di ottenere il superbonus. Entra nel futuro del riscaldamento al 110%. Scopri come su daikin.it. Daikin. È iniziata la rivoluzione di October.eu per dare risposte immediate al popolo degli imprenditori. Con October.eu le imprese possono ricevere in pochi minuti un'offerta di finanziamento. October.eu abbatte per sempre la tirannia di protocolli e burocrazie. La rivoluzione non fa aspettare. Unisciti a noi. Chiedi un finanziamento online su October.eu. Da MediaWorld ti aspetta il sottocosto. Tantissime offerte spettacolari sulla migliore tecnologia. MacBook Air 13 pollici 256 giga a soli 979 euro. Disponibili 2800 pezzi fino all'11 ottobre in negozio online. MediaWorld, fatto apposta per me. Per l'ultima volta, dove eri le notti del 10 e dell'11 ottobre? Ve l'ho detto, a casa mia. Balle, confessa che li hai rubati. Ma erano in regalo. Difficile da credere, ma i libri dei più grandi giallisti italiani sono davvero in regalo con Repubblica e La Stampa. Ogni weekend, Repubblica e La Stampa ti regalano due libri dei maestri italiani del giallo. Il vero crimine è lasciarseli scappare. Sabato 10 ottobre, Febbre di Maurizio De Giovanni e domenica 11 ottobre, Castore e Polluce di Antonio Manzini. Hai sentito? Ne parlano tutti i giornali. Recentemente alcune imprese italiane hanno subito dei gravi attacchi informatici. L'ho saputo. Pensa che in Italia c'è il rischio di un attacco informatico ogni 5 ore. Io mi affido alla consulenza di San Marco Informatica, che mi segue da sempre. Fallo anche tu. Scopri il livello di sicurezza della tua azienda. Richiedi una valutazione immediata sul sito sanmarcoinformatica.com. Bonus casa 110%. La differenza tra chi ne parla e chi lo fa sta nell'esperienza e nei numeri. Gabetti Lab, esperti dell'abitare sostenibile. Gabettilab.it. State ascoltando un programma offerto da Columbia Threadneedle Investments. Il vostro successo è la nostra priorità. Focus Economia. 18:09, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Diamo subito la chiusura di borsa, visto che parleremo adesso di Mediobanca. Mediobanca è il secondo miglior titolo di oggi, più 3,93%, il primo è Pirelli, più 4,30%, ci sono anche report favorevoli a Pirelli, Saipem più 3,25%, Tenaris più 3%, rimbalzo oggi anche del petrolio che è tornato sopra i $40, mi riferisco al WTI, e questo ha permesso a Tenaris appunto più 3%, ma anche a Eni più 2,30% di recuperare. Le altre borse europee, era partita bene, Wall Street adesso ha leggermente ritracciato, più 0,23%, Francoforte più 0,90%, Parigi più 0,60%, Londra più 0,50%, Milano assolutamente in linea più 0,76%, negativa di Assori meno 2,30%, Moncler meno 1,80%, Ferrari meno 1,40%, Inuit meno 0,75%. Dunque Mediobanca, ne parliamo ciclicamente perché da un lato dentro Mediobanca c'è un patto di consultazione che vale il 12,6% con Mediolanum, i Benetton, Fininvest e altri soggetti. Poi c'è fuori da questo patto Leonardo Del Vecchio con la Delfin, quindi Luxottica ma non solo, con il 10,2%, Bollo Re che ha il 5,6%, il retail, quindi i risparmiatori piccoli hanno il 21%, e poi ci sono investitori istituzionali per un totale di 50%, che hanno 50%, ma soprattutto Mediobanca ha il 12,86% delle generali, il secondo socio è Caltagirone col 5,25%, Del Vecchio col 4,80%, Benetton col 4%, quindi si vede che Del Vecchio e Benetton sono sia azionisti di Mediobanca che azionisti importanti delle generali. Dopo il via libera della BCE, oggi la Consob ha comunicato, se abbiamo visto sì, la comunicazione Consob, che Del Vecchio è salito dal 9,889% al 10,162%, e ha dichiarato, se ho ben visto in un'intervista al Messaggero, che verrà garantita stabilità e crescita. Ora potrebbe sembrare un'operazione minima passare dal 9,889% al 10,162%, ma Antonella Olivieri del Sole 24 Ore, buonasera Antonella. Ciao, buonasera. Ci spiegherà, immagino, perché invece non è un'operazione non solo, diciamo, simbolica di piccole percentuali, salire sopra il 10%, Antonella. Sì, come dici tu, effettivamente è un po' il cambio di un'epoca, perché Mediobanca non ha mai avuto un singolo azionista con una quota tanto importante. Oltretutto la Delfin di Del Vecchio ha ottenuto dalla BCE l'autorizzazione a salire fino al 20%. Quello che non si capisce è, francamente, per fare cosa, nel senso che Del Vecchio si è dichiarato investitore finanziario e così è stato, e con questo è stato autorizzato dalla BCE. Però un investitore finanziario che mette il 20% in una società sola, il cui, diciamo, la cui partecipazione più importante è la prima compagnia di assicurazione italiana, è una, comunque una multinazionale a livello internazionale, è la seconda, dove forse c'è in Europa, già secondo me, come azionista Del Vecchio, lascia un attimino un punto di domanda. Nessuno ha ancora capito, e lui non l'ha fatto, non ha svelato granché delle sue strategie, perché comprare il 20% di Mediobanca per fare cosa? Allo Stato si sa che a fine mese c'è l'assemblea e deve rinnovare il consiglio, e Del Vecchio non si è neanche candidato per entrare. Francamente suona un po' strano, perché una, cioè, tu dici perché salire fino al 20, già sei arrivato al 10, quando la cosa che più importante in assoluto, che è in pancia Mediobanca, è la quota di maggioranza relativa delle generali, il 12,86%, dove tu sei già presente con un 4,84%. Quindi, o se ho ben capito il tuo ragionamento, l'obiettivo sono le generali, o non si capisce, però a quel punto non è più un investimento solo finanziario, oppure non si capisce perché comprarti una quota così importante di un gruppo come Mediobanca, che ha il 12,86% di un gruppo in cui tu sei già presente. Non so come Ma per star fuori dal consiglio, oltretutto. Per star fuori dal consiglio. Allora, domanda: tu sai che sono circolate, però qui le prendo con le pinze, perché esiste, oltre che la fanta politica, anche la fanta finanza. Ipotesi addirittura che potrebbe essere le generali a lanciare un'operazione su Mediobanca. Sì, Sì, era già no, abbastanza. Mi viene perché dovrebbe essere Mediobanca, che è primo azionista, che dice alle generali di farlo su se stesso. È molto fatta in finanza. Dice anche c'è un precedente di un'operazione bancaria assicurativa dove non è finita benissimo. Molti anni fa, Allianz con Dresdner Bank. Di sì, Dresdner Bank se ne sa più niente. È scomparsa nel nulla, inghiottita. Ecco, no, diciamo che dal punto di vista così, industriale si chiamerebbe un'operazione di bank assurance, cioè metti assieme una banca, in questo caso Mediobanca non è una banca retail, cioè certo che ha la componente che è banca, ma dico una banca di investimento con un grande gruppo assicurativo. Cioè, non è che non esista, non è che sia un unico cervo in natura, però appunto tu restavi perplessa sul fatto che la controllante in maniera relativa possa autorizzare la controllata a lanciare un'oppa su se stessa. Appunto, beh, no, è un pochino surreale. Però anche tu ci stai confermando che, almeno a livello di mercato, le intenzioni del vecchio a questo punto restano, non dico un mistero, ma restano abbastanza nebulose? Bah, sì, vedo anche gli analisti si interrogano perché nessuno riesce a entrare nella testa del vecchio, soprattutto se non lo spiega lui. Cioè, insomma, diciamo che lui ha spiegato che, e questa è una cosa che ha senso, che vuole assicurare la stabilità dell'azionariato, perché è vero che il patto di sindacato di Mediobanca prima in passato controllava anche oltre il 50% del capitale, adesso si è ridotto al 12,6%. Come ricordavi tu, è chiaro che col 12,6 se un domani qualcuno avesse delle mire su generali, magari invece di andare a contendersi le azioni generali passa direttamente da Mediobanca, che gli costa un po' di meno e avrebbe in mano comunque la quota di riferimento di generali oltre al resto. Quindi è vero che un patto così ridotto, tra l'altro un patto di consultazione adesso non è neanche più... cioè in caso d'OPA nessuno fa barriera, ecco, per capirsi. Sì, non è un patto di sindacato. Quello lo capisco come ragionamento. Quello che non capisco però è perché fare il paladino della stabilità di Mediobanca stando fuori dalla porta. Boh, cioè francamente cioè, mi sembra la cosa che ti lascia più perplessa è l'assenza, il fatto che del vecchio non si sia iscritto per partecipare, diciamo. Ma secondo me non la sappiamo tutta, perché non è possibile, cioè ha logica, dico. E questo però, nella tua previsione, vuol dire che la doppia partita, nel senso Mediobanca e Generali, è tutt'altro che finita? Ah, sicuro, cioè nel senso siamo soltanto ai preamboli, vabbè che durano anche da tanto, perché è l'anno scorso che... Sì, tra l'altro in questi giorni Caltagirone ha anche annunciato di aver aumentato la sua quota dentro le generali. Poca roba lo sta facendo, voglio dire, mi sembra anche lui da un parecchio tempo. Sì, è vero. Piccoli acquisti, però comunque adesso ha staccato il gruppo degli altri privati leggermente. Ecco. Sì, al 5,25 contro il 4,80 e il 4% del Benetton. Importante quello che dicevi, insomma, la partita è proprio agli inizi. E alcune zone, non dico d'ombra, ma non chiare, non comprensibili, lo dimostrano. Grazie anche a Antonello Olivieri, traffico e poi lo sviluppo sostenibile in periodi di crisi dura e di recessione dura da Covid-19. Strade in diretta. Buona serata. A causa di due incidenti si segnalano code sull'autostrada del Brennero tra Pegoniaga e Mantova Nord in direzione del confine di Stato e tra Brennero e Vipiteno in direzione Modena. Code per un altro incidente anche sulla 10 Genova Ventimiglia tra Orcofellino e Spotorno in direzione Genova e per lavori code sulla 26 Genova Gravellona Toce tra l'innesto con la 10 e Masone in entrambi i sensi di marcia. Code a causa di un veicolo in avaria sulla 4 Torino Trieste dove il traffico è già sostenuto vista la fascia oraria in cui ci troviamo tra Sesto San Giovanni e l'innesto con la tangenziale nord di Milano in direzione Trieste. Code per lavori sulla 9 Milano Como tra Chiasso e Como Centro in direzione Milano e tra Como Centro e Como Montelimpino in direzione della Svizzera e per lavori code anche sulla 14 Bologna Taranto tra Trepineto e Giulianova in ambi i sensi di marcia. È tutto a più tardi. Focus Economia. Allora, lo sviluppo sostenibile è una cosa molto seria. Dicevo che proprio il Recovery Fund, che è il nome che noi diamo al Next EU Generation, che vuol dire occuparsi delle prossime generazioni, dei figli e dei nipoti che abiteranno questo continente, si occupa appunto di Next Generation perché ritiene che assieme alla digitalizzazione e all'inclusione sociale l'altro pilastro sia rappresentato proprio dalla sostenibilità, che vuol dire sì economia circolare verde, ma sostenibilità economica. Si è conclusa una 17 giorni di eventi promossa dall'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile. L'ha conclusa anche con l'intervento del commissario agli affari economico monetari europei Paolo Gentiloni e anche il presidente del Consiglio, che ha detto basta tergiversare, serve una svolta ecologica. E allora dai giovani ci viene questo messaggio, ci lanciano la richiesta di aderire a un patto intergenerazionale. Possiamo rispondere con una visione egoistica in cui, voglio dire, chi è di turno, come dire, si accomoda nel gestire le risorse senza una prospettiva di sviluppo sostenibile, oppure possiamo invece predisporci ad aderire a questo patto intergenerazionale. L'importante è che tutti i decisori pubblici in Italia, in Europa, nel mondo, siano consapevoli che questo è il momento delle scelte, non si può più tergiversare. D'accordissimo con Conte, vale anche per il governo, perché come ci raccontavano ieri i nostri ospiti, tanti paesi hanno già portato una bozza più dettagliata, noi abbiamo tempo fino al 15 ottobre, ma ormai ci siamo, e io sto ancora aspettando di capire le linee guida concrete per utilizzare i soldi che arriveranno col Recovery Fund. Conte invece ha detto una cosa che riguarda la prevenzione, che il commissario Arcuri sta concludendo la gara per 5 milioni di test rapidi, dove, visto che ci sono le file lunghissime a Roma, Milano, ma non solo, per avere i test, quelli, diciamo, il test classico, i test rapidi sono quelli salivari, diciamo, quelli che vengono usati negli aeroporti, per capirci. Ieri ricordo infatti che il sindacato dei medici di famiglia ha detto, assieme al ministro Speranza, che di essere disponibile a effettuare i test, cioè a prendersi in carico anche questo, anche perché le ATS, le strutture sanitarie, sono sempre più sotto pressione ed è chiaro che lo saranno sempre di più. Come avete notato, non rispondo oggi ai quelli che chiamo i negazionisti del Covid, però i numeri sono importanti. Non è che se Trump spara una cavolata storica come il fatto che il numero dei morti per influenza sia più alto del numero dei morti per Covid, bisogna credere. Il dato è esattamente l'opposto. Guardate i dati diffusi oggi dall'Istituto Britannico di Sanità. Siamo a un terzo, e anche negli Stati Uniti siamo a un terzo, quindi Trump racconta balle in questo caso, e bene ha fatto Twitter e Facebook a bloccare. Non è che puoi raccontare su una tragedia immane come questa qualunque cosa solo per portare acqua elettorale al tuo mulino. E guardatevi i dati diffusi, non posso fare un approfondimento su questo, dall'Istituto Britannico di Sanità, che non penso che tifi né per il governo Conte né per Trump, e vedete qual è il rapporto tra i morti registrati quest'anno in Gran Bretagna rispetto agli anni precedenti e i morti per altre patologie, così almeno i numeri hanno la testa dura. Enrico Giovannini, ex ministro del lavoro, ex presidente dell'Istat e attualmente portavoce di Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, buonasera. Buonasera. Ora, è impossibile raccogliere 17 giorni di interventi. Le faccio una domanda che mi arriva anche dai WhatsApp. Come si fa a parlare di sviluppo sostenibile nel momento in cui l'atteggiamento di molti è primum vivere, cioè sopravviviamo a questa pandemia, cerchiamo di iniettare liquidità, di aiutare i settori più colpiti e cerchiamo di traghettare il maggior numero di imprese e lavoratori oltre, diciamo, la fase, diciamo, più cruenta, speriamo che termini con marzo e aprile, e cioè altri confondono l'economia sostenibile con la decrescita. Insomma, la domanda di fondo è: non è che in questo momento sia, non dico un lusso, ma un po' troppo teorica il tema dell'economia sostenibile rispetto alle emergenze quotidiane che vediamo? La risposta migliore la dà il 30% di imprese italiane che già a maggio, in fase di ripartenza, avevano scelto lo sviluppo sostenibile come direttrice. Perché sviluppo sostenibile oggi, grazie alle nuove tecnologie, vuol dire tagliare i costi delle materie prime, dei semilavorati e quindi guadagnare produttività, non perderla. Questa è la grande differenza rispetto a 10 anni fa. E tant'è vero che oggi Gentiloni ha ricordato che quando è scoppiata la crisi, anche a Bruxelles c'erano coloro i quali dicevano no, ma adesso dateci le mani libere, poi dopo sulle questioni occupazionali, la giustizia sociale, l'ambiente, ci penseremo dopo. Invece la Commissione ha tenuto la barra dritta perché è convinta che questo sia il modo per un nuovo modello di sviluppo che crea lavoro. Oggi abbiamo presentato il nostro rapporto ASVIS che è disponibile sul sito dell'ASVIS e abbiamo fatto una prima simulazione molto preliminare su cosa accadrebbe se venissero tolti i famosi 19 miliardi di sussidi dannosi per l'ambiente che lo Stato paga ogni anno. Bene, l'effetto se vengono soltanto tolti è negativo per il PIL, ma se vengono per esempio trasformati in un taglio del costo del lavoro, 19 miliardi all'anno di riduzione del costo del lavoro, questo non ha effetti negativi sul PIL e fa aumentare l'occupazione e taglia le emissioni. Quindi è possibile, questo è esattamente quello che dovremmo fare, visto che l'Europa, compresa l'Italia, ha deciso che 77 dei famosi 209 miliardi del Fondo per la Ripresa e la Resilienza devono andare in questa direzione. Poi 40 devono andare alla digitalizzazione, perché le due cose vanno insieme verso la cosiddetta economia digicircolare, sembra un po' uno scioglilingua, ma i due pezzi sono assolutamente connessi. Sì, io sono d'accordo, cioè che si debba anche pur mantenere i nervi saldi e sfruttare questa situazione drammatica anche per reimpostare alcuni modelli produttivi. Mi dice, modelli di sostenibilità economica, mi dice dov'è che noi ci siamo mossi bene, visto che voi fate anche un bilancio, e dov'è che invece l'Italia è indietro, così cerchiamo anche di dare qualche indicazione in più al governo, visto che appunto, come ricordava lei, parte di questi aiuti devono andare nella sostenibilità. Guardi, l'economia circolare, cioè la possibilità di non solo riusare i rifiuti, ma di disegnare i prodotti per riutilizzarli, e sull'economia circolare le imprese italiane sono le prime anche in Europa. E infatti anche noi citiamo 2020, spesso il caso del Comieco, ma perché è un consorzio che ha fatto storia, ce ne sono tantissimi altri, certo. Esattamente, non a caso il padiglione Italia all'Expo Dubai sarà tutto disegnato in questo modo, intorno proprio alla sostenibilità. Siamo invece indietro sugli aspetti sociali, sugli aspetti ambientali, abbiamo un peggioramento continuo della qualità degli ecosistemi, sia terrestri che marini, anche perché, per esempio, sono 10 anni che non riusciamo ad approvare una legge contro il consumo di suolo. E adesso anche l'ANCE, l'Associazione Nazionale dei Costruttori, chiede di andare in questa direzione perché la riqualificazione del costruito è anche più conveniente sul fronte economico piuttosto che costruire ancora. Il punto però dove siamo più indietro, Barisoni, è che noi sono decenni che non facciamo programmazione a lungo termine. E speriamo che questa volta, mi ha tirata fuori però Giovannini, speriamo che stavolta il governo sfrutti l'occasione del recovery per fare un po' di programmazione a lungo termine. Esattamente, tant'è vero che oggi noi nel rapporto, al di là di cosa bisognerebbe farci con i fondi, certo, e l'abbiamo già detto a maggio, indichiamo che cosa, come bisogna organizzarsi su tutto questo fronte. Per esempio, dal 1 gennaio, sì, il CIPE, il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, diventa CIPES su nostra proposta, cioè si aggiunge sviluppo sostenibile. Da lì passano tutti i progetti di infrastrutturazione, certo, di innovazione. Se il CIPE non cambia approccio, avremo il solito risultato del passato. Ecco, questo è un esempio molto concreto. Sì, sono d'accordo, Ma noi staremo qui a monitorare poi tutti i passaggi del governo, senza nessuno scontro, lo dico, senza nessuna prevenzione, senza essere prevenuti nei confronti del governo, ma senza nessuno sconto, perché adesso il tempo stringe, il 15 ottobre è sempre più vicino. Grazie anche a Enrico Giovannini, noi intanto ci risentiamo domani dalle 17 in poi.